Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani e Salva Danaio. Buona giornata a tutti. Siamo entrati nel mese di maggio, che tra gli operatori dei mercati è famoso per il detto sell in May and go away, che ogni anno in questa stagione già la nostra Valeria Novellini annuisce e sorride, che in questa stagione circola tra gli investitori con il consiglio, insomma, di vendere a maggio e uscire dai mercati, godersi i mesi estivi, anche se l'anno scorso ci siamo goduti ben poco con quello che è successo, non per colpa del mercato azionario, ma più di altro di quello obbligazionario, con lo spread che è volato alle stelle. È comunque un atteggiamento suggerito per non avere preoccupazioni durante l'estate. Probabilmente ieri qualcuno ha già messo in pratica il detto di mercato, perché ieri le borse sono scese parecchio, anche se oggi sono in recupero. Comunque, se questo è solo un detto che non viene per forza rispecchiato dai fatti, come si è visto negli anni passati, è vero però che la stagione primaverile si può prestare a qualche riflessione attenta sulle proprie scelte di investimento, e molti spunti vengono offerti anche da quella che viene definita la stagione dei dividendi. A Piazza Affari, fino al prossimo 8 ottobre, saranno staccate 131 cedole fra i titoli quotati, fra le società quotate. I rendimenti offerti a Milano sembrano essere anche piuttosto generosi, per quanto il totale, non ci sorprende naturalmente questo, sia di entità inferiore rispetto all'anno passato. Comunque siamo su livelli ancora piuttosto interessanti. Le società distribuiscono così parte degli utili del 2011, e questo può essere un motivo per progettare futuri investimenti in queste aziende, ma senza dimenticare che naturalmente è un atteggiamento che va adottato con cautela. Non è tutto oro quello che luccica. Per valutare tutti gli aspetti, infatti, di un investimento in un'azione, perché questa riconosce un dividendo, bisogna conoscere bene anche i meccanismi che portano questo ad essere calcolato, come si lega il rendimento con l'andamento in borsa del titolo, con le quotazioni, con gli effettivi utili distribuiti. Questa peraltro è solo una parte di tutte le curiosità a cui risponderemo questa mattina. Ricorderemo anche come funziona lo stacco di una cedola, chi incassa i dividendi, basta comprare il giorno prima, oltre naturalmente a scoprire le società più generose che occupano le posizioni più alte di questa classifica di primavera. E poi, conviene proprio diventare prigioniero della cedola se l'azione di riferimento continua a scendere? Cercheremo di capirlo stamattina. Valeria Novellini, ti ho già citata, analista dell'Ufficio Studi del Sole 24 Ore, come sempre preparatissima, una raffica di carte e incartamenti con lei. Buongiorno Valeria, bentornata. Buona giornata. È un benvenuto, anzi, perché per la verità la società interviene spesso nella nostra trasmissione, ma lui oggi ha il suo battesimo di Salva Danaio. Alessandro Zanin, analista di Consulti, una società di consulenza di analisi indipendente. Zanin, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, naturalmente, per tutte le curiosità dei nostri ascoltatori, i modi per interagire con noi li conoscete benissimo: 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Se invece ci volete scrivere, potete utilizzare tante opzioni: 349 238 6666 per i vostri sms, oppure salvadanaio@radio24.it per le vostre domande un po' più articolate, oppure andate ad animare il dibattito su Facebook. Il nostro profilo è salvadanaio-radio24. Volevo anticipare che, esattamente come ci aspettavamo, ieri ci avete inondato di domande di chiarimento sulla questione dell'IMU. Io vi ricordo ancora che lunedì il Sole 24 Ore organizza come sempre una guida pratica che sarà molto più ampia del solito su questo argomento. C'è il forum online, andate a curiosare sul sito del nostro quotidiano del Sole 24 Ore. Noi ci ritorneremo naturalmente su questo argomento anche la prossima settimana. Abbiamo fino a questo momento ipotizzato di rifare una trasmissione martedì prossimo, e quindi vi accompagneremo in vista di questa scadenza. La prima rata è prevista per il 18 giugno, ma è talmente complicata la questione su come calcolare, sulla questione appunto di nozione di dimora, abitazione principale, di nucleo familiare, lo abbiamo capito ieri, per cui è necessario ritornarci di frequente evidentemente nelle prossime settimane su questo argomento. Intanto, tutte le domande che ci avete girato ieri noi le abbiamo girate ai nostri esperti, ai nostri interlocutori. Dateci un paio di giorni di pazienza, perché non possiamo ricevere la domanda e rispondere in due nanosecondi. Molti di voi sono impazienti e ci ritempestano con la medesima domanda più volte. Dateci un minutino di pazienza e cercheremo di accontentare tutti. La borsa, noi oggi parliamo dei dividendi. La borsa oggi come va? Va un po' meglio di ieri. Ieri è stata proprio brutta la giornata, soprattutto per Piazza Affari. Ci sono stati tanti temi che hanno condizionato in negativo l'umore degli investitori, in particolar modo ieri un po' tutti si sono concentrati sui temi dell'occupazione, disoccupazione in forte rialzo in tutta Europa, siamo ai massimi da molti anni, anche l'Istat ha comunicato i dati sulla disoccupazione italiana, c'è quella giovanile che è oltre il 35%, un dato molto allarmante, ci sono stati dati dell'agenzia ADP negli Stati Uniti, anche là nella creazione di nuovi posti di lavoro in aprile potrebbe essere inferiore al previsto, domani avremo la statistica ufficiale diffusa appunto dall'amministrazione americana. Ieri questo è stato un po' il tema che ha tormentato gli investitori in Europa, che oggi recuperano: Parigi più 1,28, Francoforte in rialzo di un punto, Londra più 0,4, Milano più 1,12%. Oggi c'è la riunione della Banca Centrale Europea a Barcellona, Mario Draghi quindi oggi la sua conferenza stampa la terra al sole, non nel clima sempre un po' più grigio e cupo di Francoforte. Detto questo, oggi il mercato si confronta sempre con alcune trimestrali, ci sono stati i risultati di Hermès a Parigi, di Société Générale, ci sono stati i dati di Finmeccanica a Milano che non sono piaciuti per niente e perché il mercato penalizza pesantemente il titolo, adesso perde il 3,46%, ma è arrivato a perdere il 6% stamane, anche se il gruppo ha fatto sapere che i risultati per la verità sono risultati migliori dei target fissati dal mercato, ma evidentemente gli investitori non la pensano nello stesso modo perché il titolo è in forte flessione. La Spagna ha collocato 2,5 miliardi di titoli di Stato, rendimenti in rialzo, pensati che per i titoli a 3 anni i rendimenti sono balzati al 4% dal 2,61 dell'asta precedente. Anche la Francia ha collocato titoli OAT, quindi titoli decennali con scadenza al 2022, il rendimento in questo caso invece è stato in discesa al 2,96%. Siamo in piena campagna elettorale, per cui il mercato forse guarda più la politica e trascura il mercato, anche se abbiamo visto che in realtà i temi sono strettamente correlati. Direi che la giornata di oggi al momento la possiamo lasciare, andiamo invece ai temi di mercato di altro tipo. Oggi parliamo delle cedole che distribuisce Piazza Affari. Meno abbondanti di un anno fa, ma pur sempre tra le più interessanti d'Europa. Sono le cedole dei titoli di Piazza Affari, che nel corso di questa primavera stanno offrendo agli investitori di lungo periodo rendimenti piuttosto appetitosi, per un monte dividendi che arriva complessivamente a circa 13 miliardi di euro. Il dividend yield, ovvero il rendimento del dividendo, si attesta in media a quota 4,1. Un livello di sicuro interessante che dà l'idea di come, in molti casi, le cedole delle società più generose arrivino a superare il 6%, fermandosi quindi ben al di sopra dei rendimenti dei BTP decennali, che a loro volta negli ultimi mesi sono saliti notevolmente per via della febbre dello spread e delle preoccupazioni sul debito pubblico. Nella classifica italiana si trovano al primo posto i titoli dell'energia e alcune utilities, mentre non avrà molto da aspettarsi chi ha investito nel settore bancario. Non per forza, però, alti dividendi vanno di pari passo con i buoni risultati di un titolo negli scambi di borsa. A confermarlo sono i numeri. In media, le 20 società in testa alla classifica delle cedole hanno perso il 30% in borsa nel 2011. Bisogna quindi fare bene i calcoli e non scegliere solo in base a questo dato, anche se senza dubbio il momento della distribuzione dei dividendi è uno spunto per orientare le riflessioni e le strategie future degli investitori, proprio nel periodo salutato dai trader con il detto «sell in May and go away», che ogni anno in questa stagione circola tra gli investitori. Vendere a maggio ed uscire dai mercati, per non avere preoccupazioni durante l'estate. Vabbè, insomma, sono detti di mercato, qualche volta questo detto si è puntualmente verificato, negli anni passati come dicevamo un po' meno, però insomma ci piace in questo mese quando arriva a ricordarlo, ricordare questa sorta di ricorrenza finanziaria. Comunque quello che ci interessa oggi è approfondire il tema dei dividendi, delle cedole distribuite dalla società di Piazza Affari, anche se per la verità c'è molta disaffezione da parte di molti investitori nei confronti del mercato azionario, però c'è chi ancora nella diversificazione del suo portafoglio sui titoli italiani continua a puntare, anche se con molto malcontento naturalmente, e continua a puntare guardando proprio magari all'unica magra consolazione che rimane, cara Valeria, quella della distribuzione dei dividendi. Quali società hanno rinunciato quest'anno a remunerare i propri azionisti? Beh, in linea di principio quasi tutte le società che hanno chiuso in perdita per ovvi motivi, anche se alcune hanno comunque remunerato gli azionisti. Il caso più da citare è Prysmian, la cui perdita però è dovuta a una sanzione antitrust internazionale, per cui diciamo, oltre alla grossa fusione che c'è stata con Draka, per cui diciamo che è una perdita dovuta a circostanze contingenti. Però hanno rinunciato quasi tutte le banche, eccezione fatta per Intesa San Paolo e UbiBanca, e anche qui quasi sempre sono chiusure in perdita, però determinate in gran parte da svalutazioni, impairment di avviamenti e di società acquisite negli anni scorsi. Quindi diciamo che la maggior parte delle società del FTSE MIB, del principale paniere di Piazza Affari, ha deciso di mantenere la distribuzione del dividendo, magari un po' rivedendolo a ribasso. In questo caso quante società invece lo hanno ridotto, Valeria? Ma diciamo che in linea di principio, per quanto riguarda le utilities tipo Enel, Terna, Snam eccetera, l'hanno mantenuto sostanzialmente invariato. Enel l'ha un po' ridotto da 0,28 a 0,26, ma comunque l'ha mantenuto abbastanza in linea col passato, e negli altri casi addirittura in qualche caso l'hanno aumentato. Eni l'ha leggermente aumentato oppure mantenuto stabile. Allora, Alessandro Zanin, quindi complessivamente abbiamo dato delle cifre. Noi prima quest'anno, nel 2011, siamo nel 2012, ma naturalmente le società distribuiscono dividendi relativamente all'esercizio precedente, no? Quindi qual è complessivamente, lo vogliamo ricordare, il monte dividendi distribuiti? Insomma, e voi quali valutate le società più interessanti, anche se chiaramente dobbiamo fare, come dire, un calcolo percentuale, ma magari non è detto che solo la percentuale basti a far sì che un analista consideri la remunerazione interessante per quello che riguarda appunto una società che eroga il dividendo. Sì, sicuramente la considerazione sui dividendi, come dicevate voi all'inizio della trasmissione, va fatta in ottica di portafoglio, tenendo conto da un lato sicuramente anche la performance di quello che è il titolo, per evitare appunto di rifugiarsi su quello che potrebbe essere anche solo una falsa credenza, come ad esempio potrebbe essere quello, il caso eclatante di andare a acquistare un titolo come Enel, che distribuisce grossi dividendi, ma che attualmente quota su minimi storici. Quindi da un lato sì, grossa liquidità derivante appunto dall'incasso delle cedole, ma dall'altro anche il rischio di perdere quello che è sul capital gain. Quindi sicuramente la considerazione deve essere da un lato basata su un'analisi di bilancio con dati, diciamo, che si fondano sull'indebitamento, la redditività, magari anche l'esposizione al più o meno ciclico, diciamo, un titolo potrebbe essere più o meno legato a quello che è la turbolenza di mercato, come succede, abbiamo visto, per le aziende industriali oppure magari per il settore bancario. Quindi da un lato appunto dividendo, ma sì, va considerato anche quello che è l'aspetto di sostenibilità nel lungo del pagamento del flusso. Certo, ha citato un caso emblematico, ci sono delle aziende che naturalmente, pur a costo di strozzarsi, il dividendo non potranno rinunciare mai a distribuirlo. Esatto. Le aziende che naturalmente devono remunerare, in questo caso azionisti un po' ingombranti, come nel caso di Enel il tesoro, giusto? Questo è anche un aspetto magari da guardare, forse un po' più rassicurante per un investitore. Detto questo, il fatto di avere un azionista così importante non salva i corsi azionari. Sì, quello, diciamo, si ha sicuramente la certezza di poter incassare dei grossi cedoloni, però come dicevo prima, ritrovarsi con un titolo che quota i minimi storici, sicuramente questo non dà la garanzia, diciamo, di un rendimento anche solo sufficiente, anche perché per come viene costruito diciamo il prezzo di un titolo azionario che viene quotato nei mercati finanziari, nel momento in cui la cedola viene staccata si subisce una diretta diminuzione direttamente proporzionale a quello che viene elargito, diciamo, ai propri. E infatti è la rettifica, mi pare, del titolo. Esatto. No? Cioè, diciamo, il prezzo di borsa è un prezzo cosiddetto telkel, nel senso che rispecchia anche i dividendi attesi e quelli già programmati, chiaramente. Certo. Quindi nel caso di Enel, che va a distribuire oltre il 10% all'anno, nel momento in cui il titolo distribuisce dividendo di 25 centesimi, l'azione il giorno stesso cala di prezzo del 25, poi sul medio-lungo periodo tendenzialmente recupera. Esatto, cioè, un concetto di sostenibilità sul lungo, per cui tendenzialmente non dovrebbe andare a impattare direttamente, però nel breve questo accade. Allora, insomma, questo è un po' il primo rudimento di ciò che dobbiamo apprendere relativamente al mondo dei dividendi. Per adesso stiamo scoprendo solamente come si stanno comportando le società più importanti di Piazza Affari, ma Valeria ha anche tante altre piccole storie da raccontarci, le storie del listino minore. Ci sono tante aziende che erogano dei dividendi assolutamente interessanti, pur non avendo dei bilanci in realtà così floridi come una remunerazione così appunto interessante giustificherebbe. Adesso ve le racconteremo. Prima di andare in pausa, magari, Valeria, possiamo ricordare tra le big del FTSE MIB, del principale paniere di Piazza Affari, chi ha già elargito un acconto di dividendo e perché in genere le società decidono anche di dare un acconto sul dividendo complessivo? Allora, diciamo che principalmente sono le società ancora con una partecipazione pubblica o ex di emanazione pubblica, quindi servizi pubblici tipo Eni, Snam, Terna, Atlantia, ci sono anche altre società, diciamo, non di emanazione pubblica, però tendenzialmente queste società erogano un acconto dividendo, diciamo, in linea come quello che fanno la maggior parte delle aziende internazionali, perché addirittura all'estero vi è spesso l'usanza di dividere il dividendo in quattro rate così, di solito uguali, e in questo modo si ha un flusso cedolare più costante per l'investitore, ma poi non si ha la botta di cui parlava appunto il collega, dello stacco del dividendo magari. Quindi non si ha il contraccolpo, diciamo, sulla quotazione, diciamo che lo si ha di meno. E quindi si dovrebbe almeno in teoria garantire una maggiore continuità. Poi vabbè, ci sono i casi tipo Acea, che ha deliberato e distribuito un acconto dividendo, quello che doveva essere un acconto dividendo, a dicembre dell'anno scorso, poi quando ho fatto i conti aveva già raggiunto il payout stabilito per l'esercizio, e quindi quell'acconto è diventato il saldo. Incredibile. C'è la Utility Romana, se non mi ricordo male. Sì. Insomma, quindi casi davvero curiosi, ve li continueremo a raccontare tra poco. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666 il numero per i vostri sms. Antonio ci dice: buoni dividendi, sì, ma titoli che sono carta straccia, non vedo l'ora di venderli. Antonio, chissà quali saranno, se hanno dei buoni dividendi forse proprio carta straccia non saranno. E invece un altro ascoltatore che non si firma mi dice: ma Francoforte non è per nulla grigia e cupa, è meglio di Milano. Bene, andremo subito tutti quanti a visitarla. Allora, oggi parliamo di borsa, di mercati, ma ci soffermiamo soprattutto sulla situazione di Piazza Affari di Milano, perché maggio, oltre ad essere il mese in cui circola questo detto fra gli operatori finanziari, sell in May and go away, ma questo lo vedremo appunto nelle prossime settimane se si verificherà, e quindi se andremo incontro ad altre rovinose precipitazioni sui mercati, vedo che invece oggi il recupero sta riprendendo rispetto ai cali di ieri ed è sempre più consistente, a Milano che guadagna l'1,46%. Maggio è anche il mese in cui, in una giornata in particolare a metà mese, si verifica lo stacco del dividendo per molte aziende. La data principe è il 21 maggio. Molte aziende, per la verità, hanno già elargito un anticipo di dividendo. Noi oggi stiamo cercando di capire quali sono le società più generose in questi termini, se conviene investire in borsa puntando alla remunerazione delle società che vengono scelte, naturalmente, che vengono sottoscritte, e quindi insomma è un atteggiamento giusto da adottare quando diversifichiamo, speriamo il più possibile, il nostro portafoglio investito. È giusto puntare anche sulle società generose, oppure magari insomma il dividendo è interessante ma l'azione continua a scendere, quindi ci troviamo invischiati in quella che viene definita, il primo che me la raccontò a Salvadanaio, lo saluto se ci ascolta, il collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, Fabio Pavesi, la trappola delle cedole, la trappola del cedolone. Quando lui me la raccontò, Valeria Novellini, mi parlava di Telecom, perché effettivamente è un caso emblematico di società molto generosa con gli azionisti, ma di titolo che negli ultimi anni ha visto una sola direzione, quella del basso. Una volta. Adesso anche la cedola, tranne che per le risparmio, è diventata invisibile. Esatto. Quindi Telecom non eroga più nulla. No, eroga, però diciamo che non è di quelle che garantiscono un rendimento particolarmente elevato. 0,043 per le azioni ordinarie, 0,054 euro per le azioni di risparmio, perché effettivamente anche le azioni minori possono riconoscere una remunerazione. distribuzione agli azionisti? Anzi, più alta per statuto. Le azioni di risparmio hanno la caratteristica che devono garantire una remunerazione più elevata rispetto a quella delle ordinarie ed hanno il diritto di recuperare il dividendo anche nei due esercizi precedenti se non è stato erogato in precedenza. Naturalmente però l'utile deve essere capiente, per cui è capitato più volte che azioni di risparmio anche dopo 3 anni non si vedessero comunque riconosciuto il dividendo se la società continuava a andar male. Allora 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, insieme a Valeria Novellini, che avete appena sentito, collega dell'ufficio studi del Sole 24 Ore. Con noi stamattina c'è anche un analista della società indipendente Consultic, Alessandro Zanin, e noi sentiamo la prima domanda di oggi, che è quella di Carlo da Milano. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Mi aveva molto divertito il modo in cui l'ha posta alle nostre ragazze del centralino, che salutiamo peraltro, Rosa, Nicole, Sabrina e le altre. Carlo, ci dica. Sì, buongiorno. Senta, io avevo detto appunto questo, che a me non è che interessi più di tanto quello che è il prezzo, perché io non sono uno che specula, sono quello che può essere considerato un cassettista, magari una brutta parola, non lo so. No, perché, per carità, diciamo che in passato andava molto di moda, era anche associato molto al sottoscrittore di bot in Italia, però... Infatti io non, in termini di capitale so che se le dovessi vendere io ci perderei, ma questo non mi interessa perché tanto non ho bisogno di questi soldi e li tengo lì, non li vendo. Ecco, quello che volevo chiedere era questo, cioè non dico di avere una certezza anno per anno, ma una buona probabilità su quello che sia appunto il dividendo, perché è su quello che io ho contato, no? Uh-huh. E per adesso insomma il ritorno c'è stato, certo. Perché si parla anche dell'8-9%, ho detto 6, io ho provato a prendere il 9,40, ho fatto il conto, insomma non è poco 9,40, certo. Uh-huh. Ecco, quello che sono, il discorso è questo, società buone chiaramente, e qual è appunto il settore, se non mi potete dire il nome dell'azione della società, che anno dopo anno, non dico avere la certezza, ma una buona probabilità che il dividendo sia sempre più o meno sulla stessa linea costante. Solo grazie questo. Carlo, guardi, grazie. Ne parlavamo con Valeria Novellini a microfoni spenti, adesso le faccio sentire quello che Valeria ne pensa. Volevo sentire però anche Alessandro Zanin, a cui per par condicio devo ridare naturalmente il microfono. Beh, diciamo che intanto teoricamente da un anno ad un altro, a meno che naturalmente una società non abbia subito chissà che tipo di disastri nucleari al suo interno, generalmente la politica del dividendo è sempre abbastanza costante, Carlo, no? Quindi, no Carlo, scusi, Alessandro Zanin. Sì, bisogna sicuramente scindere quello che è il discorso, come dicevamo prima, dividendo da sostenibilità dello stesso. Qualora l'ascoltatore volesse proprio un consiglio su quelli che possono essere i settori dove il dividendo è più programmato, diciamo, bisogna fare attenzione alla differenza che c'è fra settori che sono ciclici e quelli non ciclici. Con ciclici intendiamo appunto il fatto che l'esposizione appunto al rischio di mercato, e quindi se il mercato va male quel settore va male, mentre invece ci sono altri settori dove la reattività è più bassa, dove quindi magari è scorrelato con l'andamento di mercato, quindi vuol dire che se i mercati vanno male magari questi settori riescono a difendersi meglio. Ci può fare un esempio di settore appartenente al primo gruppo e di settore appartenente al secondo gruppo? Settori ciclici per definizione sono il settore bancario e il settore degli industriali, dove sicuramente quando la ripresa economica riparte, cioè, diciamo, le industrie vanno più forte, così come le banche. Quando invece c'è un rallentamento, situazione che diciamo non stiamo vedendo in questo periodo. Esatto. Ecco, quindi adesso l'anticiclico per esempio che cos'è? Beh, anticiclico significa settori che puntano magari sul retail oppure sulla vendita di prodotti per la cura della... Quindi diciamo per esempio il settore farmaceutico, un tipico settore anticiclico, oppure l'healthcare, quello dedicato insomma alla cura della persona. Quindi ecco, insomma, Luce intanto potrebbe guardare a queste indicazioni. Poi qualcos'altro da aggiungere, Valeria? Tra l'altro premi in vista per i cassettisti? Sì, perché in base a un decreto legislativo approvato a marzo quest'anno dal governo, in pratica è stato ribadito, in realtà la norma esisteva già ma non è mai stata applicata, però che è applicabile la norma con cui dal 2013 però, le società possono distribuire un extra dividendo del 10% in più rispetto al livello tra virgolette normale ai cosiddetti cassettisti, che devono essere piccoli soci che detengano quindi meno dello 0,5% delle azioni e che devono detenere normalmente i titoli da almeno un anno. Questo termine però lo possono decidere le singole società. Questo è una possibilità, staremo a vedere. Beh, se il sarà di un anno è anche abbastanza ragionevole, pensavo che comunque la fedeltà venisse chiesta per un lasso di tempo un po' più alto, un po' più lungo. Diciamo che viene lasciata libertà su questo alle società, naturalmente saranno libere di scegliere un termine più lungo, però diciamo non viene premiato chi trada sul titolo, chi fa trading dalla mattina alla sera, quindi esce, entra dal titolo continuamente. Esatto. E questa è un'opportunità, vedremo se sarà sfruttata. Purtroppo penso che la potremo eventualmente vedere solo quando ci sarà anche una ripresa degli utili. Per quanto riguarda titoli che hanno un payout alto e sostanzialmente stabile, torniamo ai servizi utilities, quelli principali, tipo erogazione di gas, reti elettriche, eccetera, che chiaramente, essendo consumi, diciamo, sotto un certo livello incomprimibili, garantiscono comunque un certo livello di redditività e quindi di utili. Hanno, diciamo, altri tipo di limite queste aziende, la regolazione, generalmente la legislazione dei paesi che cambia, che in qualche maniera a volte può intervenire sul loro business. Questa, diciamo, l'incognita più grande, però mediamente, relativamente appunto all'aspetto e alla relazione con l'andamento economico, sono abbastanza scorrelate, ecco, il loro andamento e quindi di conseguenza anche la distribuzione dei dividendi. Sentiamo Lucio da Torino. Lucio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. La mia domanda è questa. Vengono i dati di resa del titolo, del dividendo in percentuale. Sì. Su questa percentuale, sulle 24 ore viene dato, su questa percentuale, su che base? Cioè, se l'azione vale 5, viene dato un rendimento del 5%, no? Ah, ecco, come si calcola il cosiddetto yield. Va bene, Lucio, grazie. Ridiamo la formuletta, che peraltro non è niente di complicato. Zanin, ci vuole aiutare lei? Diciamo, la formula che dà il rendimento è data dall'ammontare distribuito, quindi magari, non so, 20 centesimi, rapportato al prezzo di mercato. Chiaramente questo è un valore che è puntuale, nel senso si può calcolare giorno per giorno, si fa chiaramente una stima su quello che è l'anno in corso, certo, essendo il prezzo delle quotazioni variabile, e si ha un risultato. Questo è anche il motivo per cui, ad esempio, un dividend yield associato al FTSE MIB può variare sensibilmente in relazione a quello che sono le quotazioni dell'indice stesso. Ovviamente ieri valeva una cifra con un calo del 2,5%, esatto. Oggi è chiaramente un rapporto che ha un valore completamente diverso, per cui in genere quando per esempio di una società si dice che ha un tasso di rendimento di yield al 7%, così in genere che cosa fa? Si prende la media dei corsi azionari di un anno, dell'esercizio fiscale, del bilancio, Zanin? È possibile, non esiste, diciamo, una regola, ognuno da analista oppure da piccolo analista, da risparmiatore, da investitore fa le proprie considerazioni, certamente dipende anche dall'ottica di detenzione che uno può avere su un titolo, o se l'ottica è quella dei 12 mesi sicuramente si può usare il prezzo medio a 12 mesi oppure anche il prezzo spot, magari la quotazione che oggi c'è sulle piazze, che sicuramente è il dato più fresco e più utile. Quindi, insomma, allora, ribadendo, bisogna prendere la cedola che viene distribuita e poi rapportarla alla quotazione in borsa del titolo, e poi naturalmente si moltiplica per 100, così si fa la percentuale. La cedola che può essere, come diceva anche la collega, cioè distribuita in momenti differenti, magari con un acconto, con diversi acconti, quindi chiaramente vanno sommate tutte queste quote, sia gli anticipi che l'importo totale finale. Allora, stavo ricontrollando le 40 società quotate sul FTSE MIB, principale paniere di Piazza Affari. Allora, non eroga Unicredit, non eroga la Popolare di Milano, della quale ci chiedeva un ascoltatore al 349-238-6666, il Banco Popolare, Monte dei Paschi, un paio di aziende ancora non hanno annunciato che cosa faranno, sono Mediobanca e Tenaris. E poi per il resto tutte quante invece qualche cosina gli azionisti lo danno, quindi non mi sembra poi un panorama così deprimente. Valeria, che ne dici complessivamente? effettivamente. Ci racconti qualche caso minore, divertente in qualche modo di Piazza Affari? Oltre al caso Acea che già vi ho citato, vi cito in positivo Cairo Communication, un'altra di quelle che hanno pagato con l'acconto, però per la prima volta nella sua storia quest'anno, e che complessivamente ha un buon rendimento ed è una società che abbastanza in controtendenza col settore editoriale probabilmente continuerà a avere risultati discretamente positivi. Poi abbiamo il ritorno dell'utile e del dividendo soprattutto di Fiera Milano e di Ratti, che non erogava da diversi anni, quindi queste sono diciamo storie positive. Ratti, che cos'è la farmacia? Seta. E poi ecco, non trascuriamo anche le società industriali, che però comunque hanno dei risultati positivi. Adesso va di gran moda ed in effetti va anche benino il settore del lusso, Luxottica, che ha aumentato il dividendo, e poi abbiamo Ferragamo che ha distribuito il suo primo dividendo dalla quotazione. L'esordio boom, Brunello Cucinelli, il Kashmir, come ha intenzione di comportarsi? Ha fatto sapere nulla? Dunque no, non hanno dato una politica di dividendi particolari, è però da ritenersi che se gli utili continueranno a comportarsi bene, un'erogazione di... Non sono le società del lusso società che abbiano un dividend yield molto elevato, diciamo però che attualmente sono forse quelle che almeno in prospettiva possono garantire un dividendo almeno per un po' costante. Un po' come sempre, forse quello, esatto, come dire, l'atteggiamento preferito dagli ascoltatori e dagli investitori. Cesare dalla provincia di Como, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, no, niente, nell'ottica dell'investimento della remunerazione della cedola, non sarebbe forse meglio, siccome io ne ho già viste però non sono mai riuscito a tenere sotto controllo, i fondi proprio specifici, cioè in questo, so che ci sono dei fondi comuni che investono proprio solo in azioni che staccano il CDO, certo, in modo di spalmare praticamente la perdita sia nel momento dello stacco e di prendere poi tutte le buone opportunità su ogni azione come si può prendere nel mercato azionario. Però adesso non li ho seguiti molto ultimamente, quindi non so se nell'arco, perché so che è già qualche anno che sono. Ma ci sono sicuramente, come dire, fondi di investimento che sono composti quasi esclusivamente dalle società appunto che hanno rendimenti più o meno interessanti e magari si danno una percentuale al di sotto della quale non scendono, e quindi non lo so, magari in questo collettore ci sono solamente ed esclusivamente le società magari solo italiane oppure europee che danno una percentuale di rendimento di un certo tipo. Zanin, questi fondi ci sono, poi naturalmente uno li sottoscrive se ritiene che siano pertinenti alle proprie attitudini di investitore. Chiaro. Personalmente mi trovo anche abbastanza d'accordo con il ragionamento dell'ascoltatore. Esatto, sì, nel senso che ci sono sicuramente diversi strumenti che permettono di esporsi a mercati anche che magari possiedono una forza relativa più forte rispetto a quella del mercato della piazza italiana e che garantiscono anche rendimenti sicuramente maggiori. Con strumenti intendo sia fondi comuni di investimento ma anche ETF, ossia strumenti che replicano degli indici e che hanno un costo anche molto più basso rispetto a organismi collettivi di investimento. Cioè, Sicuramente ci sono questi tipi di fondi che investono magari anche nei paesi emergenti che hanno mostrato ottime performance negli ultimi anni, oppure magari anche su piazze pur sempre europee, magari quella tedesca, che però hanno mostrato, come diceva qualcuno in precedenza, qualche ascoltatore, hanno mostrato sicuramente rendimenti più alti e quindi più profittabilità. Tra l'altro, per poter beneficiare dello stacco della cedola, entro quanto tempo prima dello stacco bisogna sottoscrivere il titolo? Forse non tanto tempo prima, Zanin. In realtà basta essere in possesso del titolo il giorno stesso, cioè nel senso averlo il giorno prima e per essere in possesso il giorno stesso. Quindi... Beh, insomma, visto che lunedì 21 abbiamo lo stacco generale delle cedole, se qualcuno volesse sbizzare, ovviamente non suggeriamo un atteggiamento di questo tipo, per carità, io sto scherzando, però insomma teoricamente fino alla settimana prima si può coltivare un piccolo giardinetto di titoli e beneficiare dello stacco, ma con il contestuale calo della quotazione. Diciamo, questo è un'ottica speculativa che però certo, non è confermata, nel senso che nel momento in cui incasso la cedola e il prezzo diminuisce dello stesso importo, in realtà ho solo a perderci delle commissioni pagate. Infatti. In linea concettuale. Poi chiaro che i titoli variano, le quotazioni dei titoli variano per mille motivi, quindi magari uno alla fine può anche guadagnarci, però non necessariamente, questo non è vero sulla carta, diciamo. Valeria, volevi aggiungere qualcosa relativamente a questo aspetto toccato adesso con Zanin? Sì. Beh, io volevo aggiungere che sempre il medesimo decreto dell'extra dividendo citato sopra permetterà dal 2013 avere maggiore libertà sulla data di stacco del dividendo. Ah, cioè? Vale a dire che... No, tra l'altro, ecco, perché è fissata questa data convenzionale 21 maggio? No, questo va a scelta delle società e dipende anche da quando si tiene l'assemblea per la approvazione del bilancio. In generale tendono a pagare non tantissimo dopo la data di assemblea. Ci sono dei casi limite, tipo Engineering, che quest'anno staccherà la cedola l'8 ottobre, però diciamo che sono casi isolati. Nella maggioranza fanno l'assemblea per l'approvazione del bilancio e 20 giorni, un mese dopo staccano il dividendo. E quindi insomma poi va a finire che lo stacco avviene tutto nello stesso giorno. Altre curiosità di Piazza Affari da raccontarci? Isagro, Caltagirone, so che ci sono delle belle storie anche dietro questa azienda. Isagro l'anno scorso ha pagato un dividendo triplo rispetto a quello che paga quest'anno, nonostante fosse in perdita. E quest'anno... Non ha potuto permetterselo. Perché quel dividendo era subordinato alla restituzione di un finanziamento alle banche che avevano sostenuto quella azienda in quel periodo di difficoltà. Il rimborso del finanziamento è avvenuto ed hanno pagato questo dividendo, chiamiamolo un po' straordinario. Quest'anno diciamo hanno pagato un dividendo più in linea con gli effettivi risultati. Poi abbiamo Caltagirone Editore, che paga da anni sempre lo stesso dividendo 0,3, questo indipendentemente dai risultati che siano positivi o negativi. La società dispone di una grossa liquidità ed è per questo anche che se lo può permettere. Diciamo anche che però gran parte dei risultati finali di bilancio derivano non tanto dall'andamento del core business editoriale, ma dalla gestione finanziaria, in quanto sono società che fanno un notevole trading o comunque detengono azioni e dovendole valutare ovviamente a fine anno in base al prezzo di quel momento, sono di solito azioni bancarie o assicurative, ecco che può capitare che ci siano grosse perdite o a volte anche guadagni da questa gestione finanziaria, ed ecco perché alla fin fine il dividendo viene mantenuto stabile, anche perché, come dicevo, la società dispone di grossa liquidità. Quella, a proposito di questo, anche Parmalat ha fatto una distribuzione che non si chiama remunerazione agli azionisti, ma distribuzione parziale della riserva eccedente, 0,048 euro. E in questo caso che cosa significa questa iniziativa? Diciamo che è un po' effettivamente, concettualmente è la stessa cosa. In questo caso non si tratta di riserva eccedente, si tratta del fatto che ormai Parmalat, dopo i risanamenti, ha accumulato appunto moltissima liquidità e da tempo soprattutto gli azionisti, i fondi di investimento, ecco parliamo dei fondi di investimento, chiedevano o una maggiore remunerazione una tantum, oppure la redistribuzione di questa liquidità agli azionisti in altro modo. Loro hanno scelto questo modo. Allora, Salvadanaio sta volgendo al termine. Piero da Roma, ce la fa in 5 secondi a fare la sua domanda? Piero? Sì. Rapidissimo. Sì. Sono in linea. Senta, volevo dire, ma il vero dividendo per un piccolo risparmiatore che ha un prezzo storico, per esempio a 10 euro sull'Enel, se mi danno 0,25 come ha detto voi, ma la vera resa del piccolo risparmiatore qual non è, dice lei? Certo. Non è il 10% che dite voi, ma sarà il 0,1%. Beh, Piero, bisogna vedere quando la calcola, bisogna vedere l'anno, bisogna vedere se fa un calcolo di lungo periodo. È chiaro, bisogna vedere il momento in cui questo rapporto si concretizza. Comunque, magari le rispondiamo in privato. Piero, grazie per essere stato con noi. Grazie anche ad Alessandro Zanin e a Valeria Novellini. Salvadanaio torna domani. A tutti, buona giornata.